uguale a quella del governo. Il governo ha detto che non intende cambiare il contenuto del protocollo, che contiene pensioni e contiene questioni che riguardano l'organizzazione del lavoro, e noi sosteniamo il governo in questa sua posizione. Se poi il governo dovesse cedere nella sostanza su quanto convenuto con i sindacati, allora naturalmente si apre un nuovo scenario. E io ho già dichiarato che in quel caso noi voteremo no in Parlamento. Ho detto in varie occasioni in interviste che mi auguro che il Presidente del Consiglio sia capace di convincere i nostri colleghi, che io ho tutto rispetto e amicizia anche nei loro riguardi, per la loro azione, però anche se uno non, necessariamente non condivide tutte le loro istanze. E mi auguro che il Presidente del Consiglio sia capace di convincerli, anzi in un'occasione ho detto di convertirli.